attori di vario genere. La novità degli ultimi, diciamo, 2 anni è che c'è una maggiore consapevolezza a livello di opinione pubblica, non solo, diciamo, nel nord del mondo, ma anche e soprattutto nel sud del mondo, e quindi certe operazioni che erano state condotte in modo molto, in modo più o meno occulto e anche molto predatorio, diciamo, sono più difficili da fare. Quindi gli stessi governi dei paesi del sud del mondo che sono più interessati al fenomeno dell'accaparramento delle terre, in particolare nell'Africa subsahariana, hanno maggiore difficoltà a fare a stringere questi accordi con attori internazionali come facevano prima. Ci sono quindi, sai, dei casi di vere e proprie rivolte, di manifestazioni che hanno portato alla cancellazione oppure alla revisione di questi accordi. E uno, il più famoso, che pure ci riguarda da vicino, è quello che ha interessato un accaparramento di terra made in Italy, diciamo, una ditta italiana che aveva ottenuto una porzione di terra in Senegal, e poi in seguito ad una serie di manifestazioni questo accordo è stato cancellato, poi dopodiché la terra è stata spostata altrove, sempre nel paese del West Africa, e poi adesso c'è un'ulteriore mobilitazione per, come dire, per rivedere questo accordo. Ecco, Stefano, ospite prima di te c'era José de Salvo, responsabile delle campagne di Mani Tesi, e loro hanno iniziato a mappare un po' quelle che sono le risorse e i paesi, le zone, insomma, sulle quali si tenta appunto di accaparrarsi le risorse. La tesi fondamentale loro, ma anche di tante ONG, di tanti operatori, è che alla fine lo squilibrio fra nord e sud del mondo è quello che crea questa corsa. Alla fine noi del nord, tra virgolette, abbiamo uno stile di vita che è sostanzialmente insostenibile nel lungo termine, e quindi andiamo a succhiare, andiamo a depredare le risorse del sud. Tu che poi hai girato, sei stato anche sul terreno e condotto inchieste lunghe anni, sei d'accordo o è una visione un po' troppo semplicistica e un po' troppo terzomondista questa? È una visione, diciamo, a livello, diciamo, macro, è una visione che ha senso, nel senso evidente che le terre che noi andiamo a cercare, poi non noi, insomma, è un termine un po' vago, perché poi quando andiamo a vedere chi sono, la nazionalità, diciamo, generale degli attori coinvolti sono sì i paesi occidentali, ma sono anche le nuove potenze asiatiche, sono i paesi del Golfo moltissimo, ci sono paesi che addirittura hanno, come dire, cedono terre all'estero, ma al contempo ne accaparrano, per cui, diciamo, il quadro è molto più complesso di come si possa immaginare. Facendo un discorso macroeconomico, chiaramente funziona la tesi di Mani Tesi, mi scuso, scusate il gioco di parole, ma nel senso che, per esempio, in Africa la gran parte delle terre che sono interessate da accaparramento, diciamo, da parte di europei, sono delle terre che dovrebbero essere utilizzate, poi bisogna vedere cosa c'è nei prossimi anni, per gli agrocarburanti, quindi per essere utilizzate non tanto per generi alimentari, ma come carburanti per le nostre, per l'energia, per le nostre macchine. Quindi questo, come dire, dimostra che questa tesi in qualche modo funziona. C'era un famoso detto di Lester Brown, che è un po' un guru dell'ambientalista e direttore del Earth Policy Institute di Washington, che dice che nei prossimi anni, nei prossimi 20 anni, ci sarà uno scontro tra 1 miliardo di persone che vorranno mangiare e 1 miliardo di persone che vorranno andare in macchina, perché evidentemente le terre utilizzate per beni alimentari verranno utilizzate invece per produrre carburante per le automobili. Evidentemente questo scontro a un certo punto avverrà. E questo, insomma, è uno dei paradossi che lo studio delle risorse, dell'accaparramento delle risorse, ci consegna. Un altro dei paradossi che una tua inchiesta ha svelato, dalla terra ai frutti della terra, riguarda i pomodori. L'inchiesta si chiama The Dark Side of Tomato, il lato oscuro del pomodoro. Partiamo da quest'altra storia e dalla voce di Vittoria Adongo. Tomatoes could have been big business in the country, especially for those in the Upper East region, because they have irrigation there that produce a lot of tomatoes. And allora, Vittoria Adongo della Peasant Farmers Association in Ghana è un'associazione di coltivatori. È una delle tante voci raccolte da te e da un team di giornalisti, filmmaker, fotografi, eccetera. Avete messo insieme una serie di storie per dimostrare un paradosso incredibile. Ci spieghi qual è, Stefano? Sì, noi abbiamo la nostra equipe, abbiamo messo insieme un team di giornalisti e di